Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di signore e signori Anna Maria Bernardini De Pace, famosa matrimonialista, alla quale mi piacerebbe chiedere, per esempio, cosa ne pensa della sentenza sul terremoto dell'Aquila, dei dati sconvolgenti sull'inquinamento dell'Ilva, del duello nel centro-sinistra, della donna assolta per aver ucciso il marito persecutore. Non perdetevi dunque il suo punto di vista, seguendo Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.